Intanto allora c'è Enrico Melozzi. I'm Grande Harry. Posso dire una cosa? Grazie a tutti, benvenuti al palazzo. Volevo solo dirvi che due anni fa, insieme a altri compagni dei movimenti di Roma, io e appunto altri ragazzi insieme anche del Valle occupato, abbiamo occupato un grande magazzino in Abruzzo, a Teramo, che era una volta era un teatro, è stato abbattuto per farci la standa, poi è rimasto vuoto per anni, l'abbiamo occupato per farci un po' di arte. Ecco, oggi il procuratore della Repubblica ha detto che quello è stato un atto di terrorismo eversivo di destra, di sinistra e anarco-insurrezionalista. L'ha detto alla conferenza antiterrorismo per l'organizzazione del Giubileo. Quindi siamo tutti, spero che siamo tutti anarchici, insurrezionisti, terroristi, pericolosi criminali. Mi raccomando, alzate la guardia perché il livello di fascismo sta superando ogni limite. Alziamo la guardia. E grazie.